Non c'è bucciato. Ma niente, non c'è altro. Fai bene. Intanto, come non dai fa? Bah, allora c'è da fare. Niente c'è. Vabbè, ma invece con la forza un gatto e bombola, vedi? Vedo, è tutto strano un gatto. Ma smettila, non hai visto il baracchino? Non ho capito. Ma non mi senti bene? Sì che ti sento bene. Ho detto, smettila, non è quel baracchino. Sì. È molto grande. Normale, come una 47. Ah, e quanto sta arrivando? 6.930. E quindi non viene più Smith? No, non viene ancora io. Devi toccare il DB. E guarda se lo tocca il DB. Non lo tocca il DB. Ti sei quasi. Fai da bravo. Beh, Tatarino. Allora, e tu DB ne hai, DB? DB metto ne hai. Qui ci abbiamo tutto. Bene, bella. E ci arriva al DB. che caldo. Mamma mia, come sto. Sì, non di anno c'è un bocca gente, non che. Caldo c'è di nuovo, e adesso la prossima settimana ha dato oltre 40 gradi. Allora c'è il carbonato. Ciao, sai che dammi una da mare. Vieni, vai, fatto un fosso, rubino leo e non che. Ah, tratta lì. Un fossicello, e lo riempiamo d'acqua. E allora, 41 gradi la prossima settimana. Ma sì, è andato sui 40 gradi. Cazzo, beh. Esci che stacchiamo, abbassiamo la potenza. Ecco qua, abbassato. Vabbè, quanto stavi dando? Non tanto. No, tu non c'ha watt questa radio, c'ha 25 watt in AM e l'amplificatore ne riceve 100, fatti il conto. Intorno ai 300 watt, insomma. Non posso fare di più con questo, perché il cavo di... che eccita l'amplificatore della IAESO, quindi sono costretto ad usare lo IAESO, capito? Però già si vede l'incremento, ehi, a voglia. Sì. Dico, ma se non c'è un binario, un 747? Potrei metterlo in mezzo, ma no, non mi fido in tu, perché se mi fa rientro di RF mi crepa l'amplificatore. Potrei metterlo in mezzo, capito? Tra l'amplificatore piccolo e quello grande. Però non mi fido. No, già va bene così, è giusto per usarlo un pochino, poi lo rimetto dentro l'armadio. Se no lo uso in banda laterale, in HF. Beh, col K non ci va. No, perché i cavi sono diversi. Questo non va bene nei baracchini, l'amplificatore. Ricordatevi sempre, Antarino glielo sa, amplificatori HF hanno dei cavi che vanno collegati tra l'amplificatore, non l'antenna, no, dei cavi elettrici. Questi a quattro fili ad esempio. Dall'amplificatore escono questi quattro cavi e vanno attaccati dietro dove c'è l'ingresso a LCPTT, altrimenti non funziona. Però questo cavo è stato fatto per l'FT920, perché l'amplificatore è il suo amplificatore di linea, è l'FL2100, capito, della IAESO, te l'ho fatto vedere. Quindi per poterlo collegare al cavo bisogna cambiare tutte le connessioni dell'amplificatore. Il cavo di connessione, non tutte, il cavo di connessione. Attiramenti il TL con le rotelle. Vedi, se avessi avuto il TL922 c'ho ancora il cavo di connessione e lo spezzone della Kenwood, quello grigio con i PL in vetro. PL in vetro ad alta temperatura, quello ce l'ho ancora. Quello ce l'ho ancora, tant'è vero che quel cavo lì, che è da 90 cm, con i PL in vetro, è collegato adesso tra il 920 e l'FL2100. Per essere sicuro che non scaldi e che sia tutto a posto, capite? Ora ho capito. Tu, quando ci fa vendere in giro a volte di amplificatori HF mi ci andrà sempre di lì. E i cavi fanno. Se li devono mandare loro, perché a me me l'hanno mandato quando ho comprato il TL922 e mi hanno dato anche il cavo, mi hanno dato tutto, capito? Non è che lo vuoi fare tu, Gabo. Ti devono dare tutto loro in dotazione, anche questo c'è. Però il connettore è per l'820 della Yaesu, capito? Magari avessi avuto 100 watt di ingresso, di uscita questo in AM, in SSB ne ha 200, in FM ne ha 100, in M ne ha purtroppo 25. Se ne avessi avuto almeno 70-80 sarei uscito con 700-800 watt. Proprio l'hai pensato quello che ridiamo. In 10 collegati infatti, il 28 già lo uso in 10 metri, per questo fa 10, 15, 20, 40 e 80. E boh, questo è il 2100B, poi c'è il 2100Z che fa anche dai 160 le bande varie. Come ti organizzi la fendia, va? Come lo stai usando? Come lo sto usando? Ti la piegato su come tu la fai vendendo? Col baracchino o come lo stai usando questo coso? Con il coso lo sta usando, con l'820, solo che l'820 più di 25 watt non dà in AM, in banda laterale quello va bene. Alla HF, solo HF, per poter eccitare le LC e il PTT, altrimenti non va, non parte, non funziona. Non l'ho capito. Capito mi hai, non siete l'attendo un BV131, non siete l'attendo un 747, stai operando linea HF che ha bisogno di un cavo di eccitazione tra il PTT e l'LC. Questo c'ha quattro cavi che partono da lineare, non i PL, no, quattro cavi di alimentazione. Oltre alla corrente c'ha quattro cavettini che partono da lineare e vanno a collegarsi dietro la radio, ci sono tanti ingressi in questa radio, dove c'è scritto PTT LC, ci sono due spinette e vanno entrate lì dentro. Se tu non hai questi cavi non funziona l'amplificatore. Ora ci sono arrivato. E ti aggiungo, questi cavi sono, questi spinotti sono stati fatti per questa radio, perché il lineare è di questa radio. Per poterlo usare su un'altra radio devo cambiare i connettori e non li cambio. Capito. Capito mi hai. Tutto qua. L'ho fatta vedere, no? Nuova, nuova. Ma manca di soldi costa quel lineare, non è buccia d'arancio. Lo so. Come soldi, non ha marca. Capito? Sì, questo lo pesa 22 kg. Peccato che non dia tutto, eh. Se vuoi darle, farle dare tutto, gli faccio la rimanda laterale, non me lo faccio fare in AM, no? Siamo in affuttiamo della M. Vabbè. Tu sei abituato alla M, a me della M non me la funziona. Io se vado in H, sono lineare HF, che sto devo fare andare in M. Lo faccio andare in SSB, in FM. Se faccio in FM dice lo Smith. Io prova. Mario, abbascia. Cazzo, cosa ti ho rotto? Cosa tu? Ti sei rotto l'ago. No, fortunatamente non si era solo appoggiato troppo in fondo, ho dato un colpettino e è tornato normale. Manco male, eh. Se no mi dispiace, non sono accorto, cazzo, perché la T250 c'ha la scala sino a 200 watt, 250, isciuga, minchia come mi si è abbassata la luce del... isciuga, mi moglie. Le luci di casa sono abbassate poco fa. Cosa? Ho detto le luci di casa sono abbassate. Il giurato della Girosmith, mica la differenza. No, proprio inchiodato no, ma... si è abbassata la luce qua in cameretta, ma... te lo so già. Bene. Sono giocato il notto qui, lascia perdere. Peccato, cazzo. Peccato, peccato. Però posso fare una cosa... ma quasi quasi mi voglio divertire, va. A Mare Bongo 747 e mezzo tra l'8920 e lineare grande, quindi collegamento diretto, uscita a lineare grande, sì, dopo mi diverto, e anziché collegarlo alla T250 lo metto al wattimetro, quello che c'ha la scala 1000, vedi? Non giocare con quello, Cla, mamma mia, usalo per quello che lo devi usare. Ma infatti Natalino, non conviene che tu se capo qualcosa faccio danno forte qua. No, lascia stare, mi dia culo. Io va bene così. Se poi serve vuol dire lo colleghiamo come si deve. Se no mi faccio fare da il collegamento i due spinotti di aggiuntura maschio e femmina da collegare al 140. Però poi ci vogliono gli spezzoni grossi, non i buoni spezzoni del cavolo limi. Se devi fare un collegamento simile, non è fare, lascialo 25 watt e dopo quando vai in banda laterale te lo usi in banda laterale. E infatti conviene fare così, già va bene. KK, e se avessi sepolto a posto lo Smith? Oh, vedi, si è messo a posto, E vabbè, sciucchittato, dai. Gli ho appigliato le basinate, ha detto boom. Ma che Dio mi dice di scintille, insomma, tutte le cose. Si scherzano qui così limi. Cazzo, se sbagli poco, che metti in FM, in banda laterale, da un casino di watt. Un kilowatt sta ballando poco, schiacciato la portante, un kilowatt. Ehi Arusogu, ma cosa gli è successo alla T250? Non ce la fa a reggere tutti quei watt? No, c'è la scala 20 e 200. Non mi sono ricordato. È in scala 200 adesso, ho capito. Però non lo uso come rosmetro, come wattmetro. Lo sto usando solo come commutatore e accordatore d'antenna su 140. Come strumento esterno sto usando quello dell'amplificatore. Che se no pigliare immaginata, ti lamenti da questa che hai sbagliato, ti sei ciò pensare un cavo. No, ma che l'antenna ci ho bucato, la resina, ho fatto il buco sulla resina della col 922. La gestisce il tuo viaggio, boom, non c'era più una ricezione e trasmissione. Era un FM, gli ho dato un colpo di portante e ho pigliato poco l'antenna. Ehi, non sono cose da scherzare, non tu. Quelli, se sbagli poco e da la potenza sua, cazzo di cini di kilowatt in chibi, no? È 10. 10 bogono. Se l'antenna non regge, io ho visto Mantova 1 crepatemi. Forse la Gimpol va un po' meglio. Ma la Gimpol tiene più potenza, è chiaro, ma qua grazie a Dio ci sono cavi buoni, non ve ne mondezza. Sto usando messi e palloni grosso, i PL sono tutti Amphenol, l'impianto è fatto a regola d'arte, quindi già mi posso giocare con questo amplificatore. Solo ti ripeto, il collegamento su questa radio ha poca potenza, però se lo uso in banda laterale sono 1200, 1300, anche 1400 watt. Quello serve quando devi andare in banda laterale. Dica no, in hobby. Ma infatti qua non serve a niente, ma cosa serve? A nulla. No, non è per qua. Quello lì è fatto per andare nelle bande decametriche e basta. Non per qua. Lo conoscevi in altri questo lineare, sì? Non lo so, può darsi di sì, io ne ho visto anche da sì, ne ho visto bombe grossi, però gatta, c'hanno anche il coso decametrico come l'accordatore che c'ho io, quei lineari lì, sei in 20 metri, sei uno in 20 metri, se no non accoglia. Ah, ti dico, e questo c'ha anche il rosmetro, figurati incorporato, c'ha il doppio strumento col rosmetro. Quindi ti consente di, una volta che tu sei accordato con l'antenna, di controllarti le stazionarie anche in uscita dall'amplificatore. Adesso ti mando la fotografia, ma è bellissimo, molto bello. E me lo posso immaginare. Manda, che lo guardo. Però se magari lo conosco già a me. A me me l'ha già mandato la foto. E Io ne ho visto grossi, ma grossi è vero, la Zegilovat, che hanno, come si chiama, l'accordatore della frequenza pure, non solo che cosa, se no non va, perché in ogni banda che sei, devi mettere a quella banda, se no non va. Non so, se qua c'è non avete l'accordatore, e ce lo può pure sì. E perché dentro c'hanno un accordatore come quello che ho io, decametrico. Praticamente ci sono gli scatti e tu devi mettere nella frequenza che devi andare. Se no mica accorda bene, non può accordare bene se non è in quella frequenza lì. C'hanno un accordatore interno quelli lì. Ecco perché non vanno bene per usarli così alla cavolo di Segugio. Te l'ho mandato, minaccia lì. Grande quanto è il 922, meno finisce a minore. Il colore è lo stesso, eh. È grigio lo stesso, colore Iaesio, dai. Sta aprendo WhatsApp, che io ce l'ho nel computer pure. Ce l'ho, capito. E quindi me la guardo lì. Bella bestia deve essere, mi sta aprendo, spema. No, è molto bello, è nuovo, ma nuovo, non c'è un graffio. È bellissimo, molto molto bello. È un lineare datato, non è di ultima generazione, ma è veramente molto bello. È la stessa cosa di quello che... Vedi che in mezzo c'è il coso delle bande. È come dico io. Tanto per dire sì, in 28, lo devi mettere in 28. Lo devi mettere per poter accordare il prete e l'OAD. Infatti non vedi che è in 10 metri. È 10, 15, 20, 40, 80, vedi che è in 10. Già lo vedo. Io ho visto quello da 6, cazzo, tremendo. È così stesso il funzionamento. Tutti così sono, già va bene, dai. No, ma l'ho tolto perché era dentro l'armadio, un bello celofanato, e se lo facciamo andare un po', gli ho montato le valvole perché non c'erano, le avevo tolte, capite? Sono due valvole un po' più piccole delle 3500Z, ma sono abbastanza grosse. Io ho visto le 3500Z, lo stesso, le conosco. A Puglia si vede qualcuno con 10 valvoli, mi ha fatto abbattimento in UHF, abbattimento. E quelli bianchi che aveva quell'amico vicino mio di casa, te li ricordi? Già me li ricordo, sì. Figurati. Più mani di chi sulla Giuvici? No, questo è un buon amplificatore. Voleva anche il Walter, non gliel'ho dato, perché le serviva. Un buon amplificatore questo. Eroga un bel di potenza, un bel gioiello. Te credo. Quello è fatto per andare di là, qua non è fatto per giocare quello, praticamente. E poi si è visto che c'è la modulazione, puzzinoso, col cavo di autocontrollo della LC è perfetto, magari avessero fatto anche quelli con la 27 così. No, è un'altra tecnologia, quelli c'hanno il cavo della LC e per forza controlla la modulazione, è fatta a Prussia. Bello, va bene, ottimo per la truppa. Chi su quando attacchi a taburo la modulazione? Sì, solleva anche la modulazione, sì. KK. Troppo bello è quello. Va bene. Già giusto così per fare due controlli, dai. Niente di che. Sì, quando dice di una fai in HF, se non mi intendi mi vuoi sentire lì. Questo quello ce l'avevo a carbonati con la 3 elementi, 10, 15 e 20, 20 metri. In 20 metri andavo sempre con 70, 80 watt, 7, 800 watt PEP. Cazzo, mi davano sempre oltre 9,30, sempre. Natali, c'è il microfono, tocca e non tocca. Va vorrebbe aperto, cazzo, e spruzzato quel prodotto, già lo so. O non la schiaccio bene io, la portante a chi c'è un microfono ripresa, un trono, ed è tutto che la balla, chi c'ha? Va bene, dai. Io vi lascio, ci sentiamo un po' più tardi. Ehi, Antonio, e anch'io, dai, che è arrivata mia figlia Natalia. Ci sentiamo dopo, mi ha picco entrato. Alla cane invece. E se vedi se stai dentro, coricati qua sotto, imbecille. A niente. Cazzo, prima ci non dallo sole, abboni do radnetto. Filippo, adesso chiama Massimiliano, tirati a schiaffi alla Brocci. Ma se cade in terra, ha addressato la Reci. Guarda qui, chi c'è? Ah, e cosa vuole quello signore? Ah, vai, lo tocco lo signore. Amo seguire il pavimento, ma si va a caso. Adesso chiama Massimiliano a farti prendere la schiaffi alla Brocci. Filippo. Si ha detto che viene a trovarlo, qualche giorno. Dammi 10 minuti, Natalia, ho abbassato la tensione, qua se no è un cazzo, gatta, va. In 5 minuti era 22 gradi, si è alzata a 24. Tutti noi su di vecchia. Te credo. Vabbè, da. Questo microfono mi ha rotto le scatole, bisogna che lo apra e lo pulisca, perché non l'ho mai aperto, il microfono originale è suo, e molte volte tocca non tocca, anche tu sei abortante. Ascolta, tu fai una cosa, quando ti sistemi quella roba là, ci ha mai capito, no, di quello da tavolo, ti ordini quello che ci ha preso Marco, che è un microfono da palmo, ma lo sai quanto va bene col 3009? Ah, già ho capito, no, ma c'ho l'MBP4, mi voglio attaccare, attacco visto, e che va a rubare un goccio, non c'ho più né prolunga né niente, e vabbè, vedremo di sistemare il tutto. Me, spagnolo, visto, vabbè, dai, già torno subito, Natalia, che vado un attimino alla mia figlia. E ok, dai, già sono qui. Hola. Chi è? Avanti Lola. E tu cosa sei, Alba? Come l'Alba? Con permorato stabilizzato. Ai ai ai. Allora, stavi tranquillo, sì. E te credo. Non te l'ho più rotto, le fa. Sì, un attimo, già. Che spengo il televisore perché mia moglie ha lasciato il televisore acceso prima di uscire. E qui senti, vado in compagnia. Ma non sento bene a te se tengo il televisore acceso, capito? Oh, signore. Catta, quel microfono originale suo mi fa difetto. O non schiaccio bene io la portante oppure vuole pulito. Ma va, mi si è rotto già il bigliino che tiene il pulsante del coso, del PTT. Salotto con l'acqua a caldo perché si è spezzato. Oltre che pesano una tonnellata che si microfoni, mamma mia. Mi ho dovuto attaccare l'MB+4 perché viene male. Chi è? Chi è? Fuoco del monte, chi vuoi che sia? Cava cava. Ciao Cla. Ciao già, buonasera. Stavo provando, Natalia, nel 27055, due canali sotto, cazzo in FM, con 100 watt, 1150. E se ti rimetti la potenza sua, è logico che la eroga. Sono un bestia, cazzo, un bestia. Va bene, va bene. Quindi c'hai un rorometro che va oltre i 1000 kW, classico. Sino a 3 kW, MT 3000, sino a 3 kW, non a 1. Meme, a Spagna, meme, a 1. Lo sentite, io tengo un'antenna. Anch'io tengo un'antenna di gomma, antenna di gomma, attaccata al poggiol con l'attacca. E io ce l'ho in vetroresina. Legata al coso, al tubo dell'acqua. Cosa volta Ilia? A chi Radio Sparghiero della Ilia di Sardegna? Cosa volta? Antenna di gomma attaccata all'attacca? Sì, muy denaro, un'antenna denaro del circo. Todo specchino, todo specchino del circo, nanetos. Ehi, la mia è più pecchina, più pecchina, muy più pecchina. La mia è de marca Orfei, Orfei, nano, Orfei, nanita, Orfei. Calma, tu rilassati, aspetta il tuo turno. Sì, sì, sì, sì. Muy scherzo, muy scherzo, muy scherzo, vai. Sto modulando con la 7 ottavi d'onda, 7 ottavi d'onda, multibanda, 7 ottavi d'onda multibanda, va bene. Buonasera, mio hermano, qui Radio Sparviero dalla Ida de Sardegna, provincia de Sassari. 5-9 per te, ombre, ombre, ombre, 9 ombre, ombre, ombre, ok? Se passo l'amico del Sassari, vediamo se lo intende. Vai, Giannetto di Pirri. Ehi, guardate mio hermano, operatore già nei doppio rude della città del Sassari, nord Sardegna, che ti super copializza. Niente, non sento un basso. Con la porta che le davo, io la fa ferrare, ma le ha più ferrare. Sta arrivato. Attenti, 9.30, rilassati, mio hermano. O ti faccio lo so il capocollo. Me. Niente, ho mio armato delle spalle. Che troppo ti scuccio. La stazione Romeo VI che ho saluta da qui della Spagna, Malaga, questo è lì. Ciao Romeo VI, buona tarde. Qui Radio Sparviero dalla Ida de Sardegna in compagnia di una manica di amigos, Una manica di amigos, una busta di amigos. Arrivi 9 più 20, Romeo VI, 9 più 20 más. Positivo, mi amico, buenas tardes, buenas tardes. Un saludito para ti, para el 351 para ti, componente. Muy bien, Romeo VI, te paso Gianni per un saluto, Natalino, otto compañeros. Vai Gianni, saluta Romeo VI. K Romeo, 7351, ben sentito, operatore Delta Romeo della città del Sassari, che ti super cordializza. Bien copiato. Pues nada, saludillo, saludo cordiale, fuerte abrazo. K, la mia città del Sassari, Sassari Nord Sardegna. Ok. K, molto forte, molto forte, molto forte. 9:20 segnalito, Radio 5. Hai capito già che sta transitando in barra pesante. Dove ti trovi in barra pesante? A posizione Malaga, Malaga o sta in movimento? Quanti kilowatt stai usando? Quanti whisky, compagno? Quanti whisky hai? 1200. Quanto tiene de potenza in sida? Pequeño non tanto, non tanto pequeño, 9:20 más. Ottimo segnale per te. Vediamo se intende Natalino, Natale, Caporanno e Santo Stefano. Vai per Romeo VI in barra pesante, cambio. QSL, ok, Romero VI, 5-9 Paratì, a chi Natalino Alfa 1 dalla Isla della Sardegna, Italia, ok, 73-51 Paratì, ok, vamos a ver. Sei pecchino, eh? Ok, saluto cordiale per te, Avanti, Claudio. Mucho calor, mucho calor. Ciao Romeo VI, ciao, un abbraccio per te e tutto SQRA. 73-51. Alla prossima, hasta la vista. Ok, si tu a chi, massima attenti, eh? Ciao, ciao. Ottimo per la truffa. Ciao, buon lavoro. Allora basta, Alla Malaga, basta. Allora passo a pistacchio. Malaga mi ha sotto Roma e ne voi già. Non mi piace, a me piace il cioccolato, panna montata e una spezzatina di cacao solo. Il torrone a me. Mi ricordavo, Natalino Torrone, a me pistacchio, a te sempre roba da montare, a te no, montata non la vuoi già. No, mi piace così, cioccolato, vado una vera maraviglia a fare. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, no, già mi piace, gelato, tappa di rosmetro. Natali, hai visto com'è? Come scherreggia questa cosa? Lo grido. Guardalo. Il wattimetro della T250 l'ho spento, perché se no me lo crepa di nuovo. Sull'altro, quello esterno dell'amplificatore, siamo intorno ai 400-450. La sensore ha avuto un colpo a 100 watt, qui c'è 100 watt d'ingresso con la protezione, lo sai che è tutto protetto, il amplificatore c'ha il comando elettronico dell'LC, quindi la modulazione non va mai in saturazione. In scala 1000 ho visto che si è sbattuto, ho cambiato in scala 2000 a 1004. Mego io. Ma non mi cazzardi. Non mi cazzardi. Bene, no, Gavini. Video alla mano, buonasera a tutti. Video non te ne faccio io, che mi dirbo l'antenna, video. Questa roba sta fatta un video. Se ti fidi è così. Tieni conto che questo amplificatore in scala 1000 non lo puoi tenere in banda laterale, anche di fascia largo lo metti in scala 2000, e il risultato ce l'ha Roberto Quadrato, che la di fascia 2 metti 3000. Allo sicuro. Buonasera a tutti, buonasera. Buenas tardes. Massimiliano. Qua siamo lì, appena acceso. Divertendo, banda laterale. Bene, in 45, stai divertendo. Adesso sta dando 350 watt, 320 watt con 30 watt di ingresso. Cosa mi sto divertendo? Siamo appena acceso, ti ho detto. Ah, non sei ancora andato nel 45. Non c'è coso Mario Macarudo, ieri ti ho sentito parlando con lui. Boh, non lo so, anche lei, io non ci sono mai andato. No, io sono qua sul 10 con questa, non ne ho memoria. Sono qua bloccato a 27.075 in un display, nell'altro display sono a 50.150. 27.465. No, non c'è nulla, no, non c'è niente, c'è la Ferrari accesa lì, ma non c'è nulla. Cava, dai, tutto logico, allora vado e mi faccio una bella doccia di quelle toghe là. Col 3009 quanto ti arrivo, Massimiliano, che ho messo sull'antenna? Un po' bassa, ma dovrebbe andare. Già va bene, sei 9.10, a voglia. Radio 5 perfetta, Natalia, a voglia, va bene. Ciao, scusa che stavo parlando Natalino, dai. Vai bene, Natalino, non ti preoccupare. E che fai, lavori, male dentro la Dumba, però va bene. E quello sì, sono anche rauco. Cava, no, stai andando alla grande, là. Anche Gianni, anche Claudio, tutto a posto, là. Cava, là, siamo qua, Massimiliano, vai a docciarti e poi rientri. Ehi, adesso vado, mi faccio una bella trick e track. Riprendi, Claudio, ci sentiamo, dai. Ehi, va bene, che va bene. Cazzo, ora devo cambiare il commutatore a chi sta spingendo troppo sopra. Fatti 250. Aspetta che metto l'altro coso che mi ha dato Roberto, quello alla incrociati, se no me lo crepa lo strumento, va. Infatti, non lo lasciare lì quello lì. Usalo da solo, grazie. Signore. Ti va di cagli tutto questo. Oh, cosa ti volevo dire? Oh già, ho risolto col TVI. Cos'è? Sono andato e ho aggiustato l'antenna a quel tipo. Ma gli hai messo l'antenna nuova? No, gliel'ho messo a posto, era tutto un casino. E cosa l'hai cambiato? Gli ho fatto degli accorgimenti e non disturbo più. Era tutto un macello quell'antenna. Ma non ti ho fatto entrare? Infatti, se no non l'avrei potuto fare. Capito? Non l'avrei potuto fare, se non mi faceva entrare no, verano da arrivare. L'abbiamo convinto e mi ha fatto entrare. Cappagallo. Ma dove c'era? Sul tetto l'antenna. E allora? La mia me l'ha legata, quello lì è venuto il muratore e me l'ha fermata. Così almeno siamo a posto. Infatti, ero manco, è risolto il problema, non c'era bisogno di chiamare i puntini, bastava parlare e sarebbe risolto così, parlando e basta. Ma purtroppo me li hanno chiamati, e cosa vuoi ti dire? Quando uno disegge in Simara non c'è nulla a fare. Quindi tu boh, non c'è più bisogno di cambiarlo? No, la lascio così. Ma infatti se va bene, quello lì, legato bene, tutto gatto. Ma questo staff è il piano di sopra, è legato tutto a spago. Come una corda c'è, non è spago, no? Cosa? È legato anche al secondo piano. E me l'ho fatto, non ti credi sia battuto. È legato sopra, a una sbarra di ferro è legato. Sì, sarebbe stato meglio mettere delle staff. Sì, come fai a salire a 10 metri a mettere le staff? Ecco il problema. E vabbè, dai, contenta. E chi si contenta gode. E tu godi? E io già sto godendo già. Vai. E beh. E beh. Bonjour. E beh ragazzi, come va? Franco qui. Ciao. Ciao Gianni, ciao Natale. Ciao. Pompando sai? Sì, col 3009, 4 watt. No, no. Ho sentito che stavi facendo di ex, io ho acceso poco fa, però non stavo parlando. E poi con cosa bombo? Vado su Rughizio, cosa bombo? Con 3009 da 4 watt, l'ho omologato questo. Non c'ho più niente, c'ho solo l'antenna nuova e buh. Come mai? Ehi, fregatene, fra. Ah, no, vabbè. E beh, Gianni. Allora, fra. Cosa c'è? Recupero? E sono rientrato qui. Sono rientrato poco fa. Ah, cavagava. Ti sento la voce più lontana, ma se parla da lontano. Un po', dai, una quarantina di centimetri, 40-50. Troppo lontano? Ah, già va bene adesso. Vabbè. Comunque l'altro giorno non ti ho perso di niente, proprio va benissimo con l'antenna. Sì, sì, va bene. Figurati se fosse stata a 2 metri, sarebbe, diciamo, ancora più lunga verso sotto la capota, dai. Ma lo sai che ancora non ho avuto occasione di misurarla, ma già te la misuro la vita. No, ma sicuramente è così. Ci sono due modelli, c'è quella da 1,80 circa, dai, e quella da 2 metri. Sì, io da 2000 so che da 2 metri, sempre 2 metri l'ho avuto, anche l'altra. Ciao, fra. Beh, so, anche tu stavi pompando poco fa. Sì, pompando. Normale. Così. Pompando così, stai dicendo? Così. Così, pompando. Direi, insomma, con questo, cioè, se pensi dove siamo, arrivarmi un bel segnale, sicuramente c'è qualche whisky sotto. Sì, adesso io ti mando la foto. C'è l'amplificatore HF attaccato al 920, non sono andato col capo, sono con l'FT920 della Yaesu. L'amplificatore Shure FL2100 della Yaesu sempre. Ti ho mandato la foto già della radio che sto usando, guarda, è bella. Come timbrica, diciamo, come microfono è diverso dal capo. Allora, questo è più toni alti hai, quella allora, invece è più corposa, più cavernosa. No, arrivi bene, pure perfetta, la modulazione non perde niente. Cosa perde? Un autocontrollo delle leci, c'è il cavetto che comanda la radio, non funziona, no, col baracchino, si amplificatori. Sì, infatti, come ha detto Gianni, questa c'ha più tonalità acuta perché è un MD100. Quella IAISO sempre linea completa, mentre l'M60 c'è tonalità medio bassa, capito? Però il signor microfono è quasi 300 euro sul microfono ed è uguale all'M60, solo che è tutto cromato nero, molto bello, più bello dell'M60. Ma ormai sei abituato a sentirti con quella voce lì, quindi ci piace più quella, dai, però nulla toglie che questa è l'ultima radio. Ben Natale. Ehi, aspetta un attimo, fra, che ti faccio vedere con cosa sto modulando. Ehi, ok, la mia è sempre quella, è sempre Samurai. Poco fa cosa c'era, la Spagna? Con chi stavate parlando? Gianni. Te l'ho mandato, fra. Ehi, vabbè, ma devo usare anche un po' questa, ma che posso usare sempre il giappo, anche questa va usata. L'importante è che la modulazione sia bella lo stesso. Se poi non è uguale all'altra, sono due radio diverse, questa è un digitale, quello là è analogico. Il questo non è neanche preamplificato, sto andando col compressore e il processore tutto inserito e anche l'equalizzatore, figurati. Ma c'è, devo ingrandire la foto per vedere la potenza? No, ti ho mandato la foto dell'amplificatore, già si vede, se la ingrandisci si vede che un amplificatore che se non vedi 10, 15, 20, 40, 80. Sì, no, ma non vedo, non segna la potenza, c'hai un... si dice? Un wattmetro a parte, dai. Sì che la segna la potenza, ma non la segna. Certo, non la segna. Ce l'ho in quadri strumenti, una è il voltaggio delle valvole, l'amperometro del... l'assorbimento delle valvole ti segna, l'altro segna sia in watt e in scala a 100 o a 1000, tu guarda già c'è un... e poi c'è il rosmetro, perché c'è anche il rosmetro incorporato, ti segna anche le stazionarie in uscita dall'amplificatore, quello. Io vedo quello, vedo il voltaggio di destra, c'è anche KV, quella è una doppia scala, è così. Ovvio, oh, vedi 0, poi c'è 100, 200, 300, 400, non lo vedi, sino un kilowatt, sotto, le due scale, c'è quello delle stazionarie SWR e poi la seconda scala. Ah, e quindi è quello di sinistra, quello colorato, dai, quello segna la potenza. Certo, tu non lo vedi, sino a 3 kilowatt. Anche non lo leggo cosa c'è scritto, capito? Leggo solo la CVR, vabbè, poi c'è la A, DC, però non leggo la scrittura sotto. Perché vuole fatto la foto sullo strumento solo, vabbè, comunque già va bene. Ho detto poco fa stavate parlando la Spagna. Non intendi, io sono un amplificatore attaccato, ogni tanto entrano a bombardarmi. Li sento, ma qui è massimo, il segnale è zero, sento appena la radio che stanno chiamando. Ehi, già stava chiamando. Chi è che chiama lei dalle Sardegna? Adelante, amigos. Ehi, vengi su, pecchino, va bene. Niente, dai, babù. Avanti, Natalia. Beh, fra, visto l'hai. Ho visto. Babù, come mai? Tutto dato. Mi accontento di questo. Potete avvisare a me, no? No, lo sapevo che ti interessava qualcosa. Non si sa mai. No, a caso gli ho detto se trovavo qualche buon apparecchio. Il tuo era buono, no? Era in buone condizioni. Te credo. Anche lì come revisionato a poco, tutte e due. Vabbè, dai. Alla prossima. Ma perché fra cosa ti serve? Un 140, qualcosa del genere? Ehi, si trova qualche buona offerta, in buone condizioni. E che ci vuole anche l'alimentatore, sarebbe bello trovare tutto assieme. Io ho la linea completa fra, però la linea completa mia siamo intorno alla 600, più di 600 euro. Perché c'è la radio 300 euro. Ti faccio il calcolo così, aspetta che stacco. Non c'è bisogno di tenere attaccato. Sono 300 euro di radio fiammante, la vetrina. Poi c'è 150 euro la T250 che ha regalato, perché il prezzo è oltre 200, però a te si può fare. 150 euro la T250, accordatore automatico di linea che fa commutatore d'antenna a 4, rosmetro, wattmetro e accordatore automatico, tutto automatico con la radio, tutto in automatico. Poi c'è il PS50, l'alimentatore e la colonnina, l'SP430 e l'MC60. Quindi siamo oltre le 600 euro. Di meno non lo do, perché se conti 300 euro di radio, 150 siamo a 450. 100 euro buono, l'alimentatore, di meno si può dare il PS50 perché non ha come un alimentatore di linea e quindi è così. E siamo a 550, 50 euro la colonnina che è regalata e siamo già a 600. 70-80 euro di MC60 e siamo a troverete intorno ai 680. Ci vuole anche un po' di spazio per quello, no? E poi vado a dire, di quanti ampere ha bisogno? Guarda, io ho il PS50 di linea e c'ha 30 ampere. capito, 30 ampere sono più che sufficienti per i 140. Quanti watt tira fuori quello? Un centinaio, così mi avevi detto. Buono. Il provato con la T250, che è precisissimo, modulati, puoi mettere la portante a 90 watt e modulati ne dà anche 110. È bello tosto questo, questo era il mio lo stesso. Capito? Però fra, io non la do solo la radio, perché poi mi rimane tutto, capito? Però se vuoi già te lo trovo, io qualche amico ce l'ho, non prendere niente su eBay, se che prendi qualche fottitura, capito? Se che prendi qualche fottitura. A proposito, ho contattato, chi è che me l'ha detto, quello di Cagliari, che c'è questa radio nuova? Ma è il Galaxy? No, 140, tu me l'avevi detto già. No, Pompugno mi sembra che te l'ha detto. Allora, così tanto per farvi capire, anzi, tanto di cappello a quest'uomo, perché onestissimo, mi ha detto guarda, perché stavo andando a Cagliari a prenderlo, anche perché me l'hanno chiesto, diciamo me l'avrei tenuto, non me l'ha fottuto. Mi ha detto guarda, la radio è nuovissima, non c'è manco il decimale, ho detto vabbè, il decimale te lo metto davanti se vuoi. Anzi, ho detto al telefono, guarda, tu tieni, accendi la radio tenendo premuto dove c'è scritto Claire e appaiono gli ultimi due decimali. E infatti è fatto così, in modo che quando lo dai, se lo dai, c'hai già i decimali. E infatti mi ha ringraziato, ma non l'ho mai fatto perché non la conosco. Però mi ha detto c'è un problema, non dà più di 30 watt. Non da più di 30 watt, in AM sono troppo pochi 30 watt. No, non li dai in banda laterale, figlio Lugaro. Guarda, se non li dava in AM siamo lì, perché la radio nasce con 40 watt in AM, poi chiaramente io sono un po' pratico di queste radio e le tiro un pochino. Però se te li dai se non te li dai in SSB 100 watt c'è qualche problema. Capito? Ma tu infatti devo mandare al centro assistenza, forse come era ferma, ho detto non lo so. Però in FM e manda laterale deve dare 100 watt e 140, in AM se ne dà 30, 35 non è un problema, però se c'è un problema in manda laterale la radio c'ha qualcosa. Infatti mi hai fatto bene a dirmelo, così la mando al centro assistenza, se la devo dare la do a posto. Questo è il discorso che abbiamo sempre fatto, stiamo attenti, e questo ripeto è stato molto molto onesto. E infatti conviene prendere da qualcuno che conosci, un radio che ha già girato qua a Sassari magari, capito? Ma io ne ho dato un male di 140, di 440, 430 mi pare due soli, perché 430 io ce l'ho 10 anni. Una persona mi ha cambiato il display perché insomma si erano bruciati gli ultimi due decimali, ho messo il display nuovo. Capito, però mai riparazioni come tante altre, insomma, ecco. Però ne ho dato un male, anche di 4,40 ne ho dato tantissime revisionate a posto, non ho mai avuto lamentele. Però secondo dove le prendi se ne disfano, proprio perché c'hanno problemi queste radio, capito? Sono radio vecchi, se non sono usate in una certa maniera è un casino. Infatti come dicevo prima, bisogna sapere la provenienza, dai. L'ideale sarebbe trovarla qua in zona, l'ideale. Quindi hai la possibilità anche di provarla. Avanti Natale. Visto. Sì, io lo sapevo, te lo dicevo. È che sono venuti all'improvviso, capito? Certo, ma abbiamo cenato assieme. Non potevi parlare, ragazzi. Ne avevo tre di radio. Avevo un 430, perché ne avevo due. Un 430, un 440 e un 140. Li ho venduti tutti e tre. No, li avevi già dati. Io, il giorno che abbiamo cenato assieme, li avevi già dati. Ne abbiamo parlato, però, ti ricordi? Ah, sì, li avevo dati, sì. Perché avevo quello di Valerio, l'ho venduto a Antonello, fantastico. Non era roba mia, Era tutta roba che mi hanno dato a vendere, perché ogni tanto mi chiamano, me lo vendi, che tu che sai come fare qui e là, e io prima di dare le provo, e quindi le ho date con molta sicurezza perché erano tutte e tre a posto, soprattutto il 440 revisionato, a posto, i soliti, qualche duno c'ha qualche graffettino, qualche cosettina così, ma superficiale, capito, niente di che, però le radio sono a posto. Se no, se me l'avresti detto, fortuna te l'avrei lasciata, fra. Lei non capiterà qualcun'altra? Senza impegno, ripeto, grazie a Dio già le verde da ce li ho. È che ogni tanto mi sale il barrino. Perché con queste fai tutto, cioè, vabbè, sto facendo andare un po' il 920, ma non la uso in AM, la sto facendo andare perché ho tolto l'amplificatore, quindi gliel'ho accoppiato e giusto per farla scaldare un po', per farla andare, se no io la uso sempre in 6 metri, in 10 metri, capito così. E di solito uso il 140, però con il 140 e col 430 fai tutto, c'è cioè un HF completo e va bene, capito? Avevo anche un 60 in mano, che poi vabbè l'ho dato anche quello, però già si può procurare un 60 buono, non ce n'è problema. Fammi sapere, dai, se mi capita ti avviso se c'ho qualcosa sotto le mani buona di qualche amico che fidato, però fidato, capito? La roba di Valerio era tutta la mia, per quello l'ho venduta tranquillo, il resto me l'ho ritirata tutta io, il 920, la linea completa, tutto dentro la scatola. Avanti, doppio. Ogni tanto sparisce doppio. Sta amoreggiando, sta. Ah, in amore è entrato, in calore è entrato. Devo dire, e questo sciure si può adattare al capa, sì. Non sono sparito, lasciatemi cambiare il radio. Pensavo che ti stessi già accoppiando. No, sono solo a casa, non ti mi accoppio il muro. Sì che si può accoppiare. Ad esempio Antonello Alessio c'ha l'MB più 5 sul 140. Cavo diretto, pinna 8, alimentazione diretta dalla radio, fatto bene, non l'ho fatto io, l'ha fatto Fabrizio. Cavo schermato, buono, prende l'alimentazione diretta, esce molto bene, va molto bene. Se poi prendi un 140 o un 440, ti usi il microfono normale, momentaneamente, che col compressore inserito, col processore inserito, esce molto bene. E poi ti procuro un MC60, un MC80, un 85, qualche microfono suo da tavolo, capito, è sempre meglio, fra. No, io penso di usare questo con un adattatore, dai. Magari si accoppia bene. Provarlo non costa niente prima, dai. Sì, già si accoppiano bene, guarda. Una cosa di bello c'hanno quelle radio cable, che tu qualsiasi microfono le metti, vanno benissimo alla grande, non c'è problema. Cambiatele la radio già, dici che comunque anch'io, dai, faccio riposare questo 920 che sta lavorando troppo. Fatto, dai, sono già... colinte, minchette. Questo è un po' più cupa. La radio, vabbè, è un altro microfono, un altro tipo di radio. Questo qui, il microfono è il Proxel. Anche il segnale credo che sia più basso, poco fa è più forte. Può essere qualche watt in meno questo? Questo esce con 2,5 watt, ma si può sempre rimediare per quello. No, si sempre 9,30, ma poco fa eri oltre 9,30 se non sbaglio. KK, vabbè, dai. Così meglio va. Qui sei quasi 9,40 quasi. Capitola è franco. C'è gente cattiva da queste parti, che dice che gente che è entrata qua, vi ha detto che c'avevo tutti i baracchini, avevo un casino, tutti dentro l'armadio, io mai avuto un aggiunto dentro l'armadio. Dimmi tu. E quindi ho dovuto provvedere per forza di cose. Chi va a entrare allora? Non ha già fatto entrare nessuno che io sappia, però la gente parla a vanvera, dici va più l'armadio viene di baracchini, l'hanno detto, e questo l'hanno riferito a mia moglie, non è a dire che sono balle, è proprio roba che hanno, che dice che gente che è entrata qua ha visto che c'avevo gli armadi pieni di baracchini, io mai avuti in vita mia dentro l'armadio. Io si la giubuccia sempre in bicchia, e poi io che non sono entrato nessuno, non capisco dove li abbiano visti i baracchini dentro gli armadi. E da voi lo saranno affari tuoi. E voi ci avete sempre detto, Natali, fidarci bene, non fidarci meglio. Ehi, già lo sai chi è entrato qua. Io te l'ho detto, no, più che quella persona non è che gli ha detto una cosa del genere e poi ha detto cazzate, perché io dentro l'armadio non ho già mai avuto, capito? Allora signor, qual qualcuno addirittura è andato su Facebook a vedere tutti i baracchini che avevo. Sì, già l'avevo quando abitavo in campagna. Infatti ne ho cancellato tutto da Facebook, capito? Adesso non c'ho più nulla. Così era, manco non mi vuole di niente. A chi no, che sono giunti pure a controllarmi, mi hanno multato, mi hanno sequestrato roba, mi hanno sequestrato, e quindi non mi fido più di niente, di nessuno. Gentaglia, che? I Gentaglia Zuruso. Ma Gentaglia, però, posso fare io? Ci ho finiti i giochi, a casa mia entra che dico io, e buh. Capito? Non ha fruttito da me. Così facevano a me, mi fa. Venivano a casa, controllavano, facevano, poi andavano a dire in giro che non mangiavo per comprarmi le radio. Figlio di bagaccia, ragazzi, perché li dai? Vermi schifosi, ucci, passa via. I sovigliacchi, ha capito? La gente che si comporta così, sovigliacchi. Cazzo, non si va di né a fare i suoi. Io mica le ho rubate le cose, le ho comprate con i soldi, capito? Però intanto la gente è gelosa, hai visto cosa ti fa? A me mi hanno fatto danno, per esempio. Sono arrivati a chiamarmi i vigili del fuoco perché stavo ondeggiando troppo l'antenna e mi sono giunti a Nocchi domenica i vigili del fuoco. Dilla Claudio se non è vero. E perché non ho chiamati? Perché l'antenna ondeggiava troppo, che erano cazzi che li fregavano allora. Sto chiedendo per gente mara in giro, dai si bassi, e non c'è da fidarsi più di nessuno. Hai visto, ti ho mandato la fotografia a te di quello che ho, già l'hai visto che non c'è più nulla, proprio per quel motivo, perché la gente non si fa i cazzi suoi. C'hai l'armadio pieno della verità, quasi le zenne. Il cavo c'hai, il cavo. Anche se è vero l'armadio pieno, dillo, non ne ha fottuto da nessuno. Ma non ce ne ha fottuto niente, io non voglio avere l'armadio pieno, l'armadio mio, devo fare un gatto, vorrei fare i biati. La gente era già natalina, cattiva, capito? C'hanno l'invidia dentro, c'hanno l'invidia dentro. A chi è natalino si può comprare a chi ci grebbiate, invece l'altro non si muore comprare a nulla. Vai, vermi. Ma adesso si prende la patente. Schifosi, schifosi. Ma è schifosi, però. Ma quando mai uno non deve lasciare vivere la gente santa faccia, grazie, baccare idee. Lascia perdere. Ne abbiamo già parlato, fra, no? Noi spesso ci vediamo, andiamo a cena assieme. Ne abbiamo parlato di queste cose. Io mai più farò.